Dunque, cerchiamo di capire, perché io ho fatto un po' di confusione la settimana scorsa. Il Parlamento italiano, spinto come sempre dalla incoercibile vocazione alla pace della sua maggioranza, mercoledì scorso ha votato una mozione che, oltre ad approvare l'azione che il governo a quanto pare stava svolgendo per una soluzione politica del conflitto, azione che a me, vi confesso, era sfuggita, chiedeva al governo stesso di sviluppare con la massima rapidità presso gli alleati della NATO e nelle sedi internazionali un'iniziativa volta all'approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di una risoluzione sul Kosovo contenente i punti indicati nella riunione del G8, chiusa la citazione, e specificava come per favorire un tale esito fosse necessaria una sospensione dei bombardamenti. Benissimo. È vero che subito dopo si rispecificava che tale sospensione dovrebbe essere volta a consentire la convocazione del Consiglio di Sicurezza sulla base di una risoluzione a verificare la disponibilità del governo jugoslavo ad applicarla, il che complicava un po' la faccenda, perché una cosa è chiedere di smetterla per un po' con i raid al fine di trovare nelle sedi opportune una soluzione su cui concordino tutti, e un'altra è proporre di adire le sedi opportune solo dopo aver già trovato evidentemente altrove una proposta in base alla quale far cessare i raid. Ma insomma, la politica è la politica, si basa notoriamente sul compromesso. Quel testo era stato formulato dopo lunghe e penose trattative, era stato modificato in itinere su richiesta del governo, introducendovi la seconda specificazione, e su di esso la maggioranza ha votato compatta. Anzi, sulla seconda parte ha votato a favore persino Rifondazione. Pur a prezzo di qualche ambiguità, il termine sospensione dei bombardamenti compariva per la prima volta in una delibera del Parlamento italiano. Un vero successo della volontà di pace e della capacità di dialogo. Soltanto due giorni dopo, si riusciva a scoprire, non senza qualche sfatica, visto che l'impaginazione dei quotidiani, tra l'altro, era ovviamente sconvolta dalla notizia dell'omicidio rivendicato dalle misteriosamente ricomparse Brigate Rosse, e si riusciva a scoprire che a quell'ambiguità il governo italiano non aveva ritenuto necessario sottomettersi. D'Alema si è presentato a Bruxelles a spiegare che la proposta italiana era quella di sospendere i bombardamenti, sì, ma quando ci sarà un testo concordato con i russi e i cinesi per un voto all'ONU, e reclamando da Belgrado una risposta immediata, diciamo 72 ore, pena la ripresa dell'offensiva, e questa volta anche per via di terra. Clausola quest'ultima che significava la volontà di fare la faccia feroce senza veri motivo, perché, visto che russi e cinesi, come sanno tutti, sono disposti a concordare un testo solo quando su di esso si avrà l'adesione della Jugoslavia e l'impegno degli occidentali ad accettarla, e la proposta finale dell'Italia si riduceva a quel punto al suggerimento di smettere i raid quando si sarà raggiunto un accordo, che è più o meno lo stesso che dire che la pace verrà quando la guerra sarà finita. Per cui la signora Albright e i suoi portavoci non hanno avuto il minimo scrupolo di ribattere seduta stante che una tregua di 72, 48, 24 ore non se ne parla nemmeno, e il segretario Solana invece ha potuto dichiarare senza tema di complicazioni che la proposta italiana non è in contraddizione con le idee su cui la NATO ha lavorato fin dall'inizio. E siccome la NATO più che sulle idee lavora sui bersagli, i bombardamenti sono continuati più feroci che mai, con quell'accentuata tendenza a colpire per sbaglio i più svariati obiettivi civili e a moltiplicare i relativi danni collaterali, una tendenza che l'aviazione alleata dimostra ogni volta che qualcuno s'azzarda con maggiore o minore serietà a parlare di tregua. Sarà un caso, ma dopo che D'Alema ha fatto visita a Bruxelles sono state colpite una clinica, una prigione e 3 sedi diplomatiche. In tutto questo, naturalmente, ci hanno spiegato, non c'è niente di strano. D'Alema ha fatto il suo mestiere, la NATO anche. Il fatto che la nostra Camera dei Deputati abbia votato e il nostro governo abbia fatto proprio una mozione, per così dire, a double face, una mozione che da una parte chiedeva la tregua e dall'altra la subordinava a una condizione praticamente impossibile da realizzarsi, potrebbe, dal punto di vista del rigore parlamentare, aprire il fianco a qualche critica, sì, che volete che sia. I nostri parlamentari con il rigore non hanno mai avuto a che fare più di tanto, e nello specifico hanno il problema ben più concreto di esibire da un lato una qualche volontà di pace a uso di un elettorato che in nome di quelle vaghe e lontane motivazioni di sinistra che lo tengono assieme, non ancora digerito del tutto la tecnica di imporre la democrazia etnica a base di raid aerei, e di non far mancare dall'altro il loro appoggio a un governo che non ha né la pretesa né la capacità di sottrarsi alla propria sudditanza internazionale. E con la mozione di mercoledì scorso, in fondo, sono tutti contenti. Nessuno potrà accusarli di non aver chiesto la fine dei bombardamenti. L'hanno chiesta, c'è scritto nero su bianco, la Albrecht si è anche arrabbiata, e nessuno potrà imputar loro di aver messo in discussione la volontà di chi in simili faccende comanda davvero. E poi, se saremo bravi, se saremo davvero bravi, la NATO ha persino promesso di darci una mano a rastrellare qualche po' di bombe nell'Adriatico, cosa vogliamo di più?